9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, oggi lo vedete dal rilievo che ha nelle notizie dei giornali radio e soprattutto sui giornali, e soprattutto domani e dopodomani vedrete il calore, l'impatto che avrà la vicenda, il crescere della vicenda Fiat dopo gli annunci della decisione dell'azienda localizzare in Serbia alcune produzioni e soprattutto l'intenzione della Fiat di procedere a un cambio di passo, un cambio di marcia rispetto a un feticcio della relazione industriale italiana, cioè il contratto nazionale dei metalmeccanici, perché Fiat, per avere migliore produttività in Italia, con chi ci sta, con i dipendenti e con i sindacati che accettassero questa sfida, vuole chiaramente un contratto nuovo, vuole disdettarlo, vuole uscire dall'associazione di Confindustria Federmeccanica che ha il contratto nazionale vigente fino al 2012 come punto di riferimento e chiedere condizioni nuove. Perché chiede queste condizioni nuove? Ci porremo la questione più avanti, visto che gli incontri fondamentali per capire meglio la vicenda Fiat sono domani e dopodomani. Ma che cosa voglio dire? Voglio dire che quando la prima azienda manifatturiera del nostro paese, che ha più di un secolo di storia, che ha tradizionalmente impostato più alla, almeno negli ultimi decenni, ma più alla convergenza che alla conflittualità con i sindacati, i suoi rapporti, pone un problema di questa rilevanza senza precedenti, ripeto, perché il contratto dei meccanici è un punto di riferimento tradizionale per tutte le relazioni industriali italiane, al di là del peso effettivo che poi la categoria ha rispetto al valore aggiunto totale del paese, vuol dire che c'è un problema molto forte di competitività tra l'Italia, di regole che consentono di essere più o meno produttivi, nel nostro caso meno produttivi, rispetto ad altri paesi. E si pone quindi il problema: ma che cos'è la globalizzazione? È solo la concorrenza verso chi ha il costo del lavoro più basso? La risposta dei globalizzatori come me è no. E allora, per tentare di capire perché no, perché esistono componenti di concorrenza per ogni segmento della produzione e del valore aggiunto, e quindi l'input lavoro, giustamente si concentra tanta attenzione nel nostro paese, però è uno degli input della produzione, e invece, come insegna la storia, si può e si deve essere concorrenti, accettare la sfida della concorrenza di chi ha un più basso costo del lavoro e ha più vasto assorbimento di prodotti e capacità di realizzazione di prodotti in grandi volumi, come capita la Cina, che sarà il traino della crescita mondiale per i prossimi anni, senza per questo dimenticare che la storia alle nostre spalle insegna che chi è più alto valore aggiunto, chi è più avanti nella storia dell'evoluzione tecnologica, dell'applicazione delle innovazioni di prodotto di processo, resterà comunque più competitivo, se saprà ovviamente trarre la giusta lezione dalla storia dei mercati e accetterà la sfida di essere competitivo nei diversi segmenti del valore aggiunto. E allora la domanda da cui ripartire oggi, prima di arrivare poi a occuparci della Fiat domani, è: vogliamo capire, per esempio, nel nostro paese, di cui conosciamo il gap competitivo in termini fiscali? Sulle medie imprese italiane ci sono 23 punti sul reddito reale lordo di impresa di tasse in più rispetto a un analogo campione di medie imprese tedesche e spagnole, e l'ha elaborato Mediobanca questo tipo di confronto, ve lo cito sempre. Sappiamo quanto siamo svantaggiati su il tipo di ordinamento amministrativo, invasività dei controlli, tante troppe regole da mettere in atto, costose per le imprese. Sappiamo quanto il sistema della tutela dei contratti sia lungo, inefficiente, la giustizia civile e così via. Sappiamo quanto la tutela della proprietà intellettuale nel nostro paese sia un problemino rispetto ad altri paesi che ce l'hanno più efficace. E allora, siccome questi sono quattro grandi drive di competitività comparata, la domanda è: se fossimo veramente così pessimi come ci raccontiamo e come è giusto che ricordiamo di essere, tanto che anche la Fiat ci pone il problema oggi, ma non dovrebbe essere forse vero che tutti i grandi gruppi internazionali dovrebbero fuggire dall'Italia a gambe levate? Perché chi c'è ci resta e anzi magari talvolta pensa di espandere le proprie insediamenti in Italia? È vero che noi siamo reduci, sto finendo la mia pistolotto un po' introduttivo, siamo reduci da 20 mesi, quelli della crisi incredibile, dei 6 punti di PIL persi, che spesso ha visto, soprattutto indugio nella descrizione, di numerosi, a dire la verità, grandi gruppi multinazionali che hanno deciso in questi mesi, di fronte alla pressione competitiva e alla ridislocazione di produzione più vicino nei mercati che sono il traino della crescita nel prossimo futuro, effettivamente di ridurre la propria base in Italia. Abbiamo avuto casi come Alcò in Sardegna, che poi è finito bene, ma grazie a una pesante mediazione del governo sui costi dell'energia che gli si è dovuto garantire. Abbiamo avuto decisioni come grandi vicende aperte per mesi come quelle della Glaxo in Veneto, abbiamo avuto ridimensionamenti in Piemonte, Motorola che ha chiuso un grande centro di ricerca in Piemonte. Però, siccome il rischio è che faccia più notizia sempre chi chiude e se ne va o ridimensiona, mi sono posto oggi il problema con alcuni ospiti di primissimo livello che sono protagonisti della presenza delle multinazionali in Italia, di far spiegare a loro come e perché vi sia chi di grande nome, di grande storia e di grandi capitali investiti decida di continuare a farlo nel nostro paese, e poi chiedendo anche una guida delle migliori dal punto di vista accademico su questo tema, perché è uno dei migliori osservatori, accumulatori e laboratori di dati da moltissimi anni, esattamente tra le altre cose proprio su questo problema. Quindi io vi presento gli ospiti, perché saranno loro a dirci come e perché l'Italia non è così condannata come crediamo, e però, per essere un po' meno condannata di quanto già non sia, che cosa la lezione dei fatti ci insegna che dovremmo tentare di fare nel nostro paese per essere più attrattivi verso gli investimenti diretti esteri, dei quali ci sono due modi di vedere i dati di questa crisi. C'è il modo positivo di dire che rispetto al ridimensionamento dei paesi del G10 noi in realtà abbiamo avuto un ridimensionamento minore, ma in realtà, se andiamo a vedere i flussi comparati, noi continuiamo ad attirare flussi di investimenti diretti esteri nel nostro paese larghissimamente inferiori a quelli della Gran Bretagna, sia pure in crisi, della Francia e così via. E quindi qualcosa vorrà dire, qualcosa bisogna imparare a fare in più rispetto a quello che facciamo. Allora, gli esperti ai quali chiedere invece lumi su questo. Abbiamo con noi Pierluigi Antonelli, che è l'amministratore delegato di Bristol Myers Squibb Italia e vicepresidente Europe del grande gruppo multinazionale. Buongiorno Antonelli. Buongiorno. Giuseppe Recchi, che è il presidente della divisione Italia e Sud-Est Europa di General Electric. Buongiorno Recchi. Buongiorno direttore. E il professor Fabrizio Onida, appunto la guida non solo accademica, ma innanzitutto accademica, che insegna economia internazionale alla Bocconi di Milano ed è stato autore con cadenza sistematica temporale di rapporti proprio sul tema tra l'altro delle imprese multinazionali nel nostro paese. Buongiorno professor Onida, grazie. Grazie dei complimenti. Buongiorno. Allora, cominciamo da quelli che sono nelle aziende, per così dire, e quindi da Recchi. Se dovesse dire la sua impressione dopo questi 20 mesi sul bilancio complessivo, non dico solo di concorrenza, ma guardiamo al segmento multinazionali in Italia, partendo però dal punto di vista di General Electric, quindi l'impresa, ricordo a tutti, che comprò la Nuova Opinione nelle privatizzazioni, grandi timori quando avvenne quella cosa, poi invece si è sviluppato l'impianto. In questi 20 mesi come ha visto le ragioni per restare e per continuare a investire in Italia, oppure no? Beh, come lei ricorda, noi siamo presenti non solo con un'opinione, ma con tantissime altre aziende. General Electric, a beneficio degli ascoltatori, è un gruppo che fa tantissime cose, uno dei gruppi più diversificati al mondo, per cui rappresentiamo un paniere dell'economia. E quindi con questo occhio noi guardiamo ai mercati e l'Italia rappresenta tanti motivi di attrazione. Il primo innanzitutto è che è un mercato in sé, è la settima o ottava economia del mondo, per cui un mercato che è stato capace di posizionarsi a quel livello creando tecnologia, creando tutta una serie di fattori che sono serviti allo sviluppo economico e che un'impresa come la nostra ritrova. Quindi primo aspetto. Secondo aspetto è quello proprio che ci appena citavo della tecnologia, cioè è un paese ricco di industrie, ricco di capacità manifatturiera e ricco di eccellenze mondiali. Quindi un gruppo come il nostro fa investimenti in un paese più che per comprare quote di mercato in quel paese, perché per una multinazionale la quota di mercato è il mondo, non è nazionale. ma lo fa perché cerca una tecnologia che possa aggregare alla sua supply chain, alla sua rete tecnologica e esportarla in tutto il mondo, facendone beneficiare tutte le sue aziende e know-how generale. E su questo Nuova Opinione è stato un caso esemplare, ma non solo, cioè su tutte le aziende che abbiamo comprato noi siamo presenti con 25 divisioni nel paese. E cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato tecnologie esistenti e persone capaci di svilupparle. Il Nuova Opinione che lei citava è diventato la base mondiale di tutta la divisione oil and gas, per cui da Firenze, dove è basato, abbiamo poi fatto una serie di acquisizioni gestite e concentrate dall'Italia, e questo grazie alla capacità, produttività e soprattutto all'indotto che gravava intorno alla Nuova Opinione, che siamo riusciti a trascinare con noi nel mondo. Quando in sede internazionale, nel board internazionale, fate l'esame strategico comparato delle nuove convenienze, quando ci sono discontinuità così grosse come è questa epocale della crisi che appunto ridisloca, cioè, ricordiamo solo che 4 anni prima dell'inizio della crisi, 2 anni fa, gli Stati Uniti erano la prima potenza manifatturiera mondiale col 22,8% del prodotto industriale, ora sono la seconda. E la prima è diventata la Cina, esattamente con quel 22,8%, anzi gli Stati Uniti avevano il 24%, e gli Stati Uniti sono scesi dal 24% che avevano al 15%, il Giappone era secondo al 16%, è sceso all'8,8%, quindi ha perso metà della quota, quindi il mondo è molto cambiato. Quando fate un esame di queste discontinuità così rilevanti in un gruppo che ha una storia, una tradizione, una diversificazione così importante come la vostra, l'Italia com'è che dal vostro punto di vista, per come la vede lei, è riuscita, malgrado tutto nella crisi, a difendere la quinta posizione industriale del mondo, a essere l'unico paese del G10 la cui componente manifatturiera sul totale del commercio estero, dopo quella tedesca che è molto aumentata, persino quella italiana però è riuscita ad aumentare un po', tutti gli altri paesi del G10 hanno visto perdere le quote, cioè questo cacchio di calabrone che malgrado tutti i difetti volicchia un po' meglio nell'industria manifatturiera di quanto sembri. Perché, dal suo giudizio, Recchi? Ma guardi, le rappresento quello che è proprio la dinamica di decisione. Cioè, ovviamente un gruppo come il nostro si siede a un punto di vista che è americocentrico e da quel paese che lei ha appena descritto guarda all'evoluzione del mondo. E siccome il tema fondamentale di gruppi quotati è quello della crescita, i paesi più interessanti sono quelli che crescono di più. Quindi si divide oggi il mondo in segmentazioni di mercato un po' diverse da quelle tradizionali di paesi sviluppati e paesi in sviluppo. Oggi si dividono per quelle che sono le loro risorse competitive principali. Quindi abbiamo paesi ricchi di materie prime, ed c'è tutto un gruppo di paesi a cui appartiene la Russia, il Canada, l'Africa e simili. Poi c'è un paese ricco di persone a cui appartiene, ad esempio, ovviamente la Cina, l'India. E poi c'è un paese, poi ci sono i paesi o i territori ricchi di tecnologia a cui appartiene l'Europa dell'Ovest e l'Italia. Allora, i paesi, le prime due categorie sono ovviamente categorie ad alto tasso di crescita, perché stanno mettendo in gioco questi nuovi fattori con una capacità molto forte, molto d'impatto, mentre i paesi ad alta tecnologia hanno raggiunto delle posizioni di mercato, di maturazione di mercato, e per cui hanno tassi di crescita ovviamente più bassi. L'Europa quindi è il grande problema, cioè come fa l'Europa a crescere rispetto agli altri due blocchi, e l'Italia all'interno dell'Europa ovviamente non è il paese più brillante, per cui oggi i gruppi internazionali, quando guardano l'Europa, da cui non possono andare via, perché comunque una crescita del 2% di un mercato grande come quello europeo è in valore assoluto un grosso numero, guardano a paesi diciamo di impatto, che sono come sempre la Germania, l'Inghilterra e la Francia, e non vedono quello che invece in realtà è che in realtà in Italia è un grosso valore che non è ben comunicato, non è ben così evidente, forse anche a causa della mancanza di grandi gruppi che sono giocatori importanti sui mercati, per cui il nostro è un paese fatto da migliaia di piccole e medie imprese che però producono una quantità di tecnologia, di capacità di esportazione, di fatturato, alla fine di PIL paese, che è quella che poi troviamo nelle statistiche. E quindi è compito dei responsabili regionali dei vari settori di attirare l'attenzione, di attirare gli investimenti delle aziende verso il paese. E il tema oggi dominante per tutte le imprese multinazionali, così come i paesi, è quella che si chiama la Global Asset Allocation, cioè i $100 a disposizione per la tesoreria, dove li vado a mettere? E c'è tutto il mondo che compete per questi $100, quindi anche l'Italia si gioca le sue carte per attirare questi capitali. Antonelli, dal punto di vista dell'esperienza invece della concreta organizzazione e presenza nella storia del suo gruppo Bristol Myers Squibb in Italia, non è che c'è poi un fattore ancora aggiuntivo rispetto a quelli che abbiamo visto? Quelli macro un po' li abbiamo visti, l'Italia è comunque un posto dove restare, anche se gli svantaggi sono evidenti, comparati, però a quel punto dove restare soprattutto per chi è riuscito magari a stare innovando, perché poi questo è un paese che, diceva adesso Recchi, nel suo tessuto un'impresa troppo piccola, troppo diffusa, anche se è capace di rispondere quindi con più elasticità al variare della domanda internazionale, però il coefficiente di innovazione rischia di essere talvolta un po' inferiore nella media rispetto a quello che ci vorrebbe. È chiaro che se invece si è stati in Italia ma con capacità di fare innovazione, questo diventa poi una ragione per restarci e svilupparci. Però evidentemente non deve essere così facile, perché poi molte farmaceutiche internazionali invece si sono ritirate dal nostro paese. Quindi in questo caso la chiave per restare e continuare a scommettere nella presenza del nostro paese qual è dal vostro punto di vista? Ma guardi, noi siamo, Bristol Myers Squibb è un'azienda quindi multinazionale, siamo presenti in 50 paesi con 18 miliardi di fatturato. L'Italia per noi è il terzo paese al mondo come importanza, però per le ragioni che lei citava è un paese che comincia ad avere, a mostrare qualche debolezza in termini di vantaggio competitivo su scala globale. È però il quinto mercato, se parliamo in termini di farmaci generali, è il sesto mercato al mondo e quindi un mercato che, come diceva il mio predecessore, è un mercato su cui evidentemente c'è una domanda molto forte di prodotti innovativi e di prodotti che vanno ad soddisfare dei bisogni medici non ancora soddisfatti. Bristol Myers Squibb ha una pipeline dei prodotti negli ultimi anni, una serie di varie aree che evidentemente rispondono a queste esigenze. Il punto di cui si parlava è la capacità, andando avanti, di mantenere una presenza in Italia forte. Noi ci siamo e ci siamo perché ci sono dei centri di eccellenza, mi viene a pensare nel campo oncologico, piuttosto che nella virologia, nel cardiovascolare, molto forti, i centri di eccellenza che tra l'altro vengono anche da noi sfruttati. Abbiamo noi circa 350 centri che sono coinvolti su più di 60 studi clinici su 17 molecole e quindi questo evidentemente rappresenta un vantaggio per l'Italia. Detto questo però, come parlavamo, le multinazionali, che secondo me non devono essere viste come aziende mordi e fuggi, in Italia noi siamo dal 1946 e contiamo di restarci, si pongono dei tempi più lunghi per le proprie decisioni, non decidono dall'oggi al domani, però quando si va a vedere il quadro normativo italiano, il sistema fiscale, la qualità e il costo del lavoro, la difesa della proprietà intellettuale e la qualità delle infrastrutture, che sono secondo me elementi fondamentali per la scelta di localizzare e continuare a investire in Italia, noi non siamo messi, non siamo molto competitivi rispetto ad altri paesi e quindi c'è da chiedersi se non sia il caso in tempi abbastanza rapidi di capire quali sono i settori su cui si vuole giocare e dove si vuole veramente avere delle competenze distintive e mettere in pista delle riforme visibili, strutturali e rapide per aggredire, se non tutti, almeno alcuni di questi elementi di cui parlavamo, perché il problema delle multinazionali dell'Italia è che è difficile attrarre nuovi investimenti in Italia, bisogna fare presentare dei casi molto forti per mantenere gli attuali investimenti, mentre come manager italiano che ha girato per altri paesi negli ultimi 10 anni ovviamente c'è l'attenzione e il desiderio di mantenere quanto più possibile, di espandere invece la propria presenza in Italia. La domanda che poi rivolgiamo alla classe politica è quella di capire quali sono le priorità che questa classe politica si vuole dare e quali sono i tempi per mettere in pista delle azioni, perché secondo me con aziende di medio piccole dimensioni purtroppo molta strada si è fatta, molta se ne farà, ma in qualche modo si gioca in tornei diversi rispetto a quelli che vengono giocati da grandi gruppi che hanno un livello di innovazione e livelli anche di investimento, di ricerca e sviluppo che sono difficili da matchare da altri. Io dichiaro a chi è in ascolto il mio conflitto di interessi: io sono particolarmente grato a questa azienda perché ho fatto parte di un gruppo sperimentale da paziente per un principio attivo che poi è diventata una molecola, un farmaco sperimentale alcuni anni fa sulla leucemia. Una leucemia cronica che mi interessava, quindi ahimè dichiaro che ci tengo particolarmente, insomma, all'importanza e al fatto che ci restino in Italia, avendo fatto da topolino per loro. Detto questo, il tema di che cosa fare per continuare ad averne, possibilmente a crescerne, numero, peso, impatto sull'economia italiana dei grandi gruppi internazionali, sarà esattamente il punto con cui ripartiremo col professor Fabrizio Nida dopo la pubblicità. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando di capire come, perché, quante rispetto a coloro che le dimensionano in Italia restano invece presenti nel nostro mercato di grandi imprese multinazionali, sentendo dalla voce dei loro manager fino a questo momento che cosa li induce a restare. Prima un inciso agli ascoltatori, visto che come immaginavo il passaggio sulla Fiat come una scossa elettrica ha provocato delle reazioni. Molti mi dicono: come osi definire un feticcio il contratto nazionale metalmeccanici, ma cosa sono per te i lavoratori? Delle bambole di pezza? No, ragazzi, calmi, io dico, scegliendo apposta di usare questo termine feticcio, che forse invece di concentrarci sull'attacco ai diritti, prima di capire se è un attacco ai diritti ingiustificato, dovremmo secondo me riflettere un pochino su che cosa è successo nel mondo, in paesi avanzati che avevano pesanti sette di regole, tanto nel mercato del lavoro, quanto nel welfare, quanto di tutela, di integrazione strumenti del reddito, non oggi nella crisi e nei 20 mesi della crisi alle nostre spalle, ma addirittura anni prima. Faccio un esempio solo: la Germania, cioè quella che ha inventato la previdenza ai tempi di Bismarck, quella che ha inventato lo Stato etico, sia in versione rossa che nera, cioè non esattamente, insomma, il paradiso realizzato per un liberista, ma insomma il paese che ha inventato lo Stato etico, lo Stato sociale, l'economia sociale di mercato. Se in Germania intorno al 2004-2005, quindi prima della crisi, si è posto il problema della compatibilità per quella che era la prima potenza manifatturiera europea, noi siamo la seconda, e la prima esportatrice manifatturiera europea, noi siamo la seconda, e quella che poi è diventata grazie a quegli interventi del 2004-2005, si pose allora il problema di dire: ragazzi, ma non è che abbiamo qualche cosa che non funziona rispetto all'obiettivo di rimanere la potenza industriale europea che si avvantaggia in tutto il mondo nei nuovi mercati? Ricordate che cosa avvenne allora in grandi aziende pubbliche, controllo pubblico, Volkswagen ce la bassa dal Sassonia nel capitale. Vi ricordate che cosa avvenne esattamente sul contratto? La Germania è un posto dove ci sono i contratti d'azienda che fanno riferimento in proprio e si affermano rispetto ai pochi punti di normativa del contratto nazionale. Che cosa avvenne alla Volkswagen e poi alla Siemens, altri grandi gruppi meccanici tedeschi? Ve lo ricordate? Ricordate che le aziende dissero ai dipendenti: cari sindacati, a IG Metall, stiamo parlando di un posto dove i sindacati sono molto importanti, la Germania non è mica, stiamo parlando di un paese come gli Stati Uniti, e disse: cari ragazzi, qua bisogna che noi accettiamo di lavorare a stesso salario, quindi non al salario dove si tagliano le aggiunte previste, no, allo stesso salario, ma l'equivalente dovete darmi una settimana e mezza, cioè 10-12 giorni di lavoro in più l'anno per difendere la produttività, e solo così io mi impegno a non diminuire i posti di lavoro. Se le cose andranno come immagino, cioè bene, questa era la voce di chi pianificava la produzione seduto al tavolo del contratto aziendale, vedrete che nei prossimi anni, con la competitività che accumuliamo, avremo un'espansione tale che a quel punto torneremo ad assumere. Vi ricordate quale fu la risposta allora dei sindacati e dei dipendenti? Di lavorare di più, ripeto, per lo stesso salario, oppure difendere la base produttiva e ridare margini all'impresa? La risposta fu sì. Ecco, La Fiat, in altri termini, senza fare paragoni impropri, pone questo problema, problema dell'adeguatezza di cornici nazionali concepiti sulla illusione che uno vada bene per tutti, nella parte normativa e salariale, dicendo no, io ho altri problemi ora che sto mondializzando e accettando una sfida mondiale, voglio salire sul il treno americano. E sapete, io la Fiat non gli ho mai sviolinato, perché la Fiat di prima dei contributi pubblici, io la criticavo e mi prendevo schiaffi. Mi piace questo fatto, che pongano un problema, ed è lo stesso problema, secondo me, di cui inevitabilmente anche i grandi gruppi internazionali multinazionalizzati, stando in Italia, devono fare i conti. Poi, se voi la prendete come se io considerassi sì, gli operai bambola di pezza, io credo il contrario. Siccome ne vorrei più occupati nel mio paese, vorrei però che tutti ci occupassimo di regole compatibili per continuare ad averne molti, pagati meglio, perché c'è più produttività, c'è più margine per l'impresa e più margine anche per loro. È un'illusione? È un attacco ai diritti? Io non credo. Però, chiusa parentesi, perché ne riparleremo nei prossimi giorni. Professor Onida, ci eravamo fermati sul punto. Come si può tentare, senza disegnare vasti programmi come l'attacco ai cretini di cui rideva De Gaulle, di riforme troppo incisive, ma che possano intervenire su alcuni punti di fondo capaci di farci aumentare gli investimenti diretti esteri nel nostro paese, professore? Beh, è difficile non parlare di vasti programmi, perché quando si interrogano le imprese circa i fattori di non attrattività, diciamo, difficoltà per cui l'Italia sta perdendo peso, i fattori sono poi sempre quelli: un fisco che è complicato e poco amichevole, diciamo, poi questo prende varie forme, qualcuno cita in particolare il trattamento dei cosiddetti prezzi di trasferimento tra le affiliate e la casa madre, e comunque sul fronte del fisco normalmente viene rilevata questa cosa, a confronto con il comportamento delle agenzie delle entrate in paesi anche a noi vicini. Poi si citano le infrastrutture logistiche, la difficoltà di movimentazione delle merci, questo è importante per un'impresa multinazionale che deve continuamente gestire la cosiddetta supply chain. Si citano anche i rapporti, si cita sul cioè mercato del lavoro, non tanto per come dire, sottolineare salari troppo alti, ma elementi di scarsa flessibilità. Questo è un po' paradossale, perché l'Italia per certi aspetti ha aumentato la flessibilità nella parte bassa del sistema, ma ancora oggi un'impresa di medio-alto profilo che voglia gestire i suoi rapporti con per esempio la manodopera, i tecnici stranieri, riscontra che ci sono problemi di mobilità, di permessi di soggiorno, di visti e quant'altro, che rientrano un po' in un discorso di flessibilità, ma soprattutto la flessibilità organizzativa. Questo è un tema che Pomigliano ha richiamato, su cui Pomigliano ha richiamato l'attenzione. Credo che si stia aprendo una pagina importante su cui tutti i sindacati, non solo CISL UIL, anche CGIL in particolare, anzi, dovranno essere disponibili a rivedere quali sono gli aspetti di mancata risposta ad una flessibilità organizzativa, tra cui entrano appunto i turni di cui si è parlato. Infine si parla di costi dell'energia e, non ultimo, qualcuno dei grandi gruppi multinazionali sottolinea la mancanza in Italia di quello che potremmo chiamare un disegno programmatico per portare l'Italia verso le medio-alte tecnologie. C'è scarsa sensibilità alla ricerca. E lei che pensa di un'ipotesi in cui anche in Italia stilassimo dei settori un po' alla francese, no? Con mentalità un po' pianificatoria, dicendo qui e qui offriamo questo, questo e questo? Ma dunque, bisogna evitare l'equivoco del ricadere nei cosiddetti piani di settore. Più che tracciare dei piani di settore, si tratta di tracciare delle filiere tecnologiche, dalle nanotecnologie alle biotecnologie, alle energie rinnovabili, ai farmaci avanzati, su cui occorre effettivamente aggregare capacità di innovazione, che ci sono, come già veniva ricordato da chi prima ha parlato. Potrei citare anche il caso nel caso farmaceutico, per esempio, della Sanofi Aventis, che ha scoperto in Italia la possibilità di sviluppare farmaci antinfettivi con particolare background tecnologico e organizzativo. Questi centri di eccellenza, di cui parlava anche il dottor Recchi, esistono, sono, come noto, iperframmentati, nonché resi nonché messi in condizioni non ideali di interazione tra la ricerca universitaria e la ricerca industriale. Questo è un antico tema, no? La stessa contrattualistica universitaria non facilita questo ponte. Questi aspetti sono tutti aspetti su cui la politica può entrare, non necessariamente con grandissimi disegni, ma con interventi selettivi che rendano più agevole e incentivino anche, naturalmente, perché ci sono questi centri di eccellenza, ci sono queste possibilità di costruire reti. Si parla spesso, scusi, di reti di imprese in Italia, no? Se ne parla un po' a proposito dei distretti, si dice che bisogna fare rete, aggregare tanti piccoli. No, anche una nozione entrata nell'ordinamento e si è riusciti, sì, persino a far mettere qualche soldino persino nel provvedimento anticrisi da Tremonti. Esattamente, però c'è un po' un equivoco. Le reti funzionanti sono reti che hanno comunque dei capifila, delle imprese medio-grandi che hanno a loro volta un grande disegno di avanzamento tecnologico nei loro rispettivi campi, che sono sempre campi limitati, selezionati. Questo aspetto della rete di impresa che viene costruita avendo un soggetto medio-grande, oggi paradossalmente sono più le imprese multinazionali in Italia ad essere in grado di creare delle reti di piccoli fornitori, e non è a caso che spesso queste stesse imprese, tra i fattori di attrattività, menzionano proprio la possibilità di trovare fornitori in Italia specializzati, flessibili, tecnologicamente avanzati. Ecco, questo fa parte di un discorso virtuoso. Poi adesso io sottolineavo gli aspetti negativi. Però ecco, la cultura e la capacità organizzativa della fornitura, che diventa, sì, uno dei grandi fattori competitivi, spiega un po' perché il calabrone vola malgrado tutto il peso che c'ha, insomma, nel suo corpaccione, di cui lo Stato è come al solito il problema. Rapidissima ultima domanda per pochi secondi, perché poi nell'ultima parte Recchi ci deve lasciare. Alla base della sua esperienza, Recchi, ai suoi figli cosa ha detto? Che la strada era tutta all'estero o italiana? Ma io credo, è un discorso da padre di famiglia più che da multinazionale. Sì, da padre di famiglia. Da padre di famiglia dico che ai figli va dato il più ampio grado di libertà possibile per scegliere. Quindi le e questo, ampio, d'accordo, però cosa le ha detto? E quindi cerco di costruirgli un'educazione che sia tale, cioè che sia un'educazione appetibile in un mondo che noi parliamo di crisi, di cicli di crisi, cioè questo sicuramente penso sia un tipo di crisi che crea un reset mondiale, cioè ritara un po' tutte gli stili di vita, le aspettative, la capacità di risparmio, la forma di finanziamento che si possono avere e via dicendo. Per cui oggi io ho fatto la carriera all'estero e vedo che in ogni ambiente in cui mi sono trovato vivevo in un villaggio globale, come si dice, cioè non c'erano passaporti dominanti, ma c'erano nazionalità frutto di una selezione ormai globale. Recchi, lei deve fare il diplomatico oltre che il responsabile di grandi divisioni internazionali di multinazionali, il diplomatico. Io più secco consiglio ai miei amici, quando possono, di fare formazione all'estero, perché mi sembra nella media migliore di quella italiana. Lo dico con rispetto per tutti gli insegnanti universitari e ricercatori italiani. Noi abbiamo un modello che funziona poco rispetto a quel set di tools, di strumenti necessari proprio per affermarsi in una maniera dominante. Poi si torna in Italia se l'Italia ha delle possibilità comparate di adempiere al meglio la possibilità di soddisfare quello che uno si è fatto, laddove l'eccellenza è possibile prendersela, naturalmente per chi se la può pagare, per chi può andare all'estero. Però attenzione ragazzi in ascolto, perché forse non vi hanno insegnato abbastanza che queste cose si possono fare anche lavorando, impegnandosi, muovendo il fondo schiena, perché questo è quello che vedo un po' all'università dove che frequento io, che avviene un po' troppo poco tra voi, e forse perché ve lo hanno trasmesso troppo poco in questo paese di prima, seconda e terza macchina, 16 telefonini a testa. Multinazionale in Italia, sì o no? E come mai vola questo calabrone così, da questo corpaccione così sgraziato, eppure riesce a fare risultati migliori di quanto siamo abituati poi a descriverli, almeno nell'industria della manifattura? Sentiamo qualche telefonata ad ascoltatori. Iniziamo con Simone dalla provincia di Chieti. Prego Simone. Buongiorno. Senta, io sono un imprenditore abruzzese. Nel passato mi è capitato, noi esportiamo molto all'estero, Mi è capitato di avere degli incontri all'estero con diciamo personaggi politici che proponevano di fare investimenti in Romania, in Egitto, nell'area mediterranea, eccetera. Che promuovevano i loro paesi, cioè che offrivano a voi di andare lì. Sì. E abbiamo anche valutato attentamente le cose, abbiamo trovato dei notevoli vantaggi sotto un altro punto di vista. Cioè io tendo a sottolineare il fatto che un operaio specializzato italiano realmente vale 10 operai rumeni che ti vengono posti all'attenzione, e quindi quello che riesce a fare un operaio italiano dovresti impiegare 10 operai di altra nazionalità per farla, perché quelli specializzati, quelli che lavorano alla vecchia maniera, mettono la testa nelle cose, eccetera. Noi non ci siamo mai spostati anche per la dimensione aziendale, però io volevo fare un'osservazione. Noi ci troviamo di fronte ad un sindacato che nella realtà è legato ad un sistema anacronistico, ad un tentativo di combattere nella grande azienda. La grande azienda in Italia è morta, è distrutta, e l'ha distrutto questo atteggiamento sindacale. Cioè il problema è che in Italia realmente la manodopera non è più un fattore flessibile, è un fattore rigido. Allora Simone ci pone una questione: riconoscendo che poi il valore aggiunto nelle catene di manifattura, per cui molte multinazionali dicono vale la pena stare in Italia malgrado gli svantaggi competitivi, dipende dal fatto che malgrado bassa formazione, noi continuiamo a essere un paese a bassa formazione rispetto ai paesi avanzati del capitale umano, però c'ha questa grande qualità che nella manifattura conta, di tirare fuori talenti manuali e innovazioni di processi di prodotto che derivano dalla manualità, dall'applicazione al come si fanno le cose. Contemporaneamente lui dice il sindacato ha una grande colpa perché non guarda alle nuove regole e alle nuove forme organizzative e gestionali che sono necessarie per un paese avanzato, perché i piccoli diventino medi, i medi diventino grandi, i grandi vadano all'estero. Sentiamo Luca da Novara, lei che pensa? Sì, buongiorno dottor Giannino, complimenti per la trasmissione. Senta, mi sente? Sì. Prego, sì, dica. Buongiorno a lei, buongiorno anche ai suoi ospiti. Niente, praticamente volevo fare questo intervento riguardo appunto a queste, alle multinazionali che rimangono in Italia e anche, soprattutto a quelle che fuggono dall'Italia. Beh, innanzitutto io premetto, sono un dipendente di una piccola azienda manufatturiera, ci occupiamo di semilavorati per l'industria meccanica, tra l'altro anche lavoriamo anche per Fiat, attenzione, per Fiat. Sì. E devo dare ragione comunque a quell'imprenditore che ha parlato prima di me. E da dipendente devo dire comunque che il signor Marchionne sta agendo in una maniera secondo me giusta per come stanno andando le cose, e ripeto, sono un dipendente, quindi non un imprenditore, un ex tesserato CISL, quindi un sindacato diciamo moderato. Sì, è vero, purtroppo queste idee sindacali, soprattutto sindacali legate alla storia italiana, purtroppo stanno tenendo legata l'industria italiana, soprattutto le multinazionali, tra l'altro, con questo, diciamo, queste idee vecchie, perché alla fine diciamocela tra di noi, sono idee vecchie di questi sindacati. E per quanto riguarda un discorso economico, il fatto di queste diciamo multinazionali che fuggono anche dall'Italia, il calabrone vola, ma bisogna chiedersi fino a quando può volare. Anche un discorso del debito pubblico, un bravo manager, complimenti comunque alle multinazionali che rimangono qui in Italia, soprattutto il signore che ha parlato anche prima per la General Electric. Ma il debito pubblico, attenzione, io ho avuto occasione di parlare anche con nel mio piccolo, diciamo, con degli esponenti, non dico importanti, però di un certo rilievo, e mi hanno detto il debito pubblico incide fortemente su una scelta aziendale, perché l'unico modo per abbassare un debito pubblico cos'è? Sono le tasse. Le tasse però non vengono diciamo pensate nell'immediato. Ecco, Luca giustamente, devo togliere la parola, ritorna sugli aggravi fiscali comparati che derivano dalla nostra attitudine cicaleggiante della politica, per così dire. Allora, due domande secche ultime per concludere, prima Antonelli e poi al professor Nida. Antonelli, dico, Per l'organizzazione e la qualificazione delle punte avanzate del vostro personale, dei manager in Italia e così via, voi avete delle politiche che vi sentireste di definire come modello rispetto alla media che nel settore aziende più piccole in Italia praticano? Cioè siete discontinui e innovativi perché qualificate anche meglio i vostri qua, i vostri quadri eccetera eccetera, e questo si può fare anche senza riforme nazionali? Quanto conta oppure no secondo lei? Ma guardi, conta moltissimo. Noi pensiamo di avere un pacchetto complessivo di investimento su formazione e su risorse umane che è assolutamente molto innovativo e competitivo, e tra l'altro, al di là di darci questo di dirlo, abbiamo avuto anche una serie di premi anche dagli Unioni Industriali di Roma, Confindustria, proprio una settimana fa, e sono cose che riusciamo a fare, a mettere in pista a prescindere dal sistema, dalle leggi, perché una delle caratteristiche delle multinazionali di Prisma Esquib è proprio quello di investire in maniera disproporzionale nella qualificazione, nello sviluppo delle nostre persone, perché pensiamo che la forza lavoro, quindi in Italia ci siano persone e talenti molto, molto flessibili, persone capaci. Anche in Prisma Esquib abbiamo una serie di managers, non solo io, ma il nostro CEO per esempio è un italiano, sono senior vice president nel commerciale, nello sviluppo, nella ricerca e sviluppo italiani, che si sono proprio distinti per la capacità di avere questo approccio globale, di riuscire a lavorare in aree diverse, su con problematiche diverse, e quindi io non darei, riusciamo tranquillamente a essere competitivi a prescindere dal framework esterno del no. Malgrado gli svantaggi competitivi, che è un pochino ciò su cui volevo fare riflettere tutti oggi. Professor Onida, se le indicassi la possibilità di un paese in cui c'è un bivio, per così dire, nel nostro assetto normativo, il bivio è per un'impresa o fare riferimento al contratto nazionale nella parte normativa, nella parte salariale, o invece di fronte alla maggioranza dei lavoratori, dei sindacati iscritti e rappresentati in quell'azienda, che accettasse l'idea, un contratto aziendale, anche sostitutivo, in deroga su importanti nodi rispetto a quello nazionale. Se gli dicessi, secondo lei, le probabilità che l'Italia imbocchi questa strada, che riesca a farlo con un dibattito in cui non prevalgano i toni ideologici, ma invece dati alla mano, valutazioni di competizione alla mano, riusciamo a capire se questo ci può convenire davvero? Io penso di sì, e senza che questo configuri una specie di resa del diritto del lavoro, ma al contrario consentendo di avere più margini e facendo convergere lavoratori e imprese. Lei pensa che questo paese può esserci davvero o è un'illusione? Beh, da non esperto di economia del lavoro, la mia risposta secca è sì, la pagina si sta aprendo, come dicevo. Il problema di fondo è che l'Italia mantiene una pancia, per così dire, di rapporti di lavoro assolutamente opachi. Pensiamo a tutto il settore edilizio, pensiamo a piccole imprese che lavorano in nero, e questo condiziona l'innovazione nei contratti, posto che nessuna impresa possa pensare di funzionare bene in regime di conflittualità. A mio avviso quello che lei propone, quindi un ritorno al modello Volkswagen, ma che veniva citato prima, non è così lontano dalle prospettive attuali, anche se in questo momento i sindacati sono un po' in fase difensiva, ma credo che da molte parti si ritiene che è possibile appunto conciliare il rispetto dei diritti sindacali, il rispetto delle regole del gioco contrattate, e al tempo stesso innovare in questa contrattualistica, perché come dicevo prima è la flessibilità organizzativa che preme soprattutto non solo i grandissimi gruppi, ma anche ad un'impresa di media dimensione che sta pensando ad esempio di delocalizzare una certa produzione di componenti per mantenere o conquistare competitività. Benissimo, e questo discorso noi lo continueremo domani, di riffa o di raffa. Abbiamo chiesto a Nichi Vendola, che si è candidato alle primarie del PD, di essere con noi, ma se non potrà, vedremo comunque di farlo sulla questione Fiat. Intanto ringraziamo oggi Pierluigi Antonelli, Giuseppe Recchi, il professor Fabrizio Onida e voi che avete partecipato anche con gli sms e le telefonate. Grazie a regia Pietro Lacorte, e grazie al mio braccio destro che questa settimana è Antonella Migliaccio. La linea generale radio, appuntamento a domani.